Ottava traccia. Sembra che nell'aria di Arfield ci sia qualcosa che guida l'amore proprio nella direzione giusta e lo avvia proprio nel canale in cui dovrebbe scorrere. Mai vero amor sebbe agevol corso. Un'edizione di Shakespeare stampata a Arfield dovrebbe recare una lunga nota su questo passo. Che Mr. Elton debba essere proprio innamorato di me, che nell'autunno non lo conoscevo neppure da parlargli, e lui, il più bell'uomo che mai sia stato, e uno a cui tutti guardano con rispetto, né più né meno che come a Mr. Knightley. La sua compagnia così ricercata, che ognuno dice che egli non è obbligato a consumare un solo pasto in solitudine se non vuole, che ha più inviti di quanti non ci siano giorni della settimana. E così eccellente nella chiesa, Miss Nash ha preso nota di tutti i testi sui quali ha predicato da quando è venuto a Highbury. Dio mio, quando io ripenso alla prima volta in cui l'ho visto, quant'ero lontana dal pensare. Le due Abbott e io corremmo alla camera che dà sulla strada e spiammo dietro le tendine quando lo sentimmo passare. E Miss Nash venne e ci fece allontanare sgridandoci, e poi rimase a guardare lei stessa. Tuttavia, poco dopo, mi richiamò indietro e lasciò guardare anche me, e in ciò fu molto benevola. E che bell'aspetto ci parve avesse! Andava a braccetto con Mr. Cole. Questa è un'unione che, quali che siano i vostri amici, quale che sia la loro posizione, dovranno trovarla di loro gradimento, purché abbiano giudizio, e noi non aspettiamo che giudichino dalla nostra condotta gli sciocchi. Se essi si preoccupano di vedervi sposata felicemente, ecco qui un uomo il cui amabile carattere offre ogni garanzia. Se desiderano che vi stabiliate nello stesso paese e nello stesso ambiente in cui hanno voluto collocarvi, ecco che il loro desiderio è esaudito. E se il loro solo scopo è, secondo l'espressione comune, che vi sposiate bene, ecco qui l'agiata fortuna, la rispettabile posizione, l'ascesa nella scala sociale che deve soddisfarli. Sì, verissimo, come parlate bene, è un piacere starvi ad ascoltare. Voi capite ogni cosa. Voi e Mr. Elton avete lo stesso ingegno brillante. Questa sciarada, ci avessi studiato sopra 12 mesi, non sarei mai riuscita a comporre una cosa simile. Pensavo che avrebbe voluto provare la sua abilità dal modo in cui si schermì ieri. Credo che sia, senza eccezione, la miglior sciarada che ho letto. Certo, io non ne ho mai letta una più appropriata. E anche è lunga quasi come tutte quelle che abbiamo trovato prima. Non ritengo che la sua lunghezza costituisca un pregio. Di solito queste composizioni più brevi sono, meglio vanno. Harriet era troppo assorta nei versi per ascoltare. Le venivano in mente i paragoni più lusinghieri. Una cosa è, disse a questo punto con le guance in fiamme, possedere giudizio in un modo ordinario, come ogni altro, e se c'è qualcosa da dire, sedersi a tavolino e scrivere una lettera, e dire, né più né meno, di quel che si deve succintamente. E un'altra cosa è scrivere versi e sciarade come questa. Emma non poteva desiderare un più vivace rifiuto della prosa di Mr. Martin. Versi così dolci, continuò Harriet. Quegli ultimi due. Ma come potrò mai restituire questo foglio o dire che l'ho trovato? Oh, Miss Woodhouse, che possiamo fare? Lasciate fare a me, voi non dite nulla. Lui sarà qui stasera, ci scommetto, e allora glielo renderò. E tra noi sarà detta qualche sciocchezza, e voi non vi comprometterete. I vostri occhi teneri sceglieranno il loro momento per scoccare, fidatevi di me. Oh, Miss Woodhouse, che peccato che non posso trascrivere nel mio libro questa bella sciarada. Sono sicura che non ce n'ho una che valga la metà di questa. Omettete i due ultimi versi e non c'è ragione perché non dobbiate trascriverla sul vostro libro. Oh, ma questi due versi sono i migliori di tutti, d'accordo, per godimento personale, e per godimento personale teneteli. Non cessano di essere scritti se li staccate, sapete. Quella chiusa seguita a esistere, il suo senso non cambia. Ma toglietela e ogni riferimento personale cessa e rimane una graziosa charada galante che potrebbe entrare in ogni collezione. Credetemi, non gli piacerebbe di vedere la sua charada tenuta in poco conto, più di quel che non gli piacerebbe veder tenuto in poco conto il suo ardore. Un poeta innamorato deve ricevere incoraggiamento nella sua duplice veste o in nessuna delle due. Datemi il libro, io la trascriverò e allora non ne può venire a voi alcun pregiudizio. Harriet si rimise all'amica, benché la sua mente non riuscisse a separare le due parti in modo da sentirsi sicura che la sua amica non copiava una dichiarazione d'amore. Sembrava un'offerta troppo preziosa per ricevere qualsiasi grado di pubblicità. «Non lascerò mai che quel libro si allontani dalle mie mani», disse. «Benissimo», rispose Emma, «sentimento quanto mai naturale, e più dura, più ne sarò lieta. Ma ecco che viene mio padre. Non vi opporrete che io legga la charata a lui. Gli procurerà tanto piacere. Adora le cose del genere, specialmente ogni cosa che sa d'omaggio al bel sesso. Egli ha il più tenero spirito di galanteria verso noi due. Dovete permettermi di leggergliela». Harriet prese un'aria grave. «Mia cara Harriet, non dovete sottilizzare troppo su questa charada. Tradirete i vostri sentimenti in modo inopportuno se vi mostrate troppo consapevole o troppo corriva, se sembrate annettere più peso o magari tutto il peso che può venire annesso alla charada. Non lasciatevi sopraffare da sì piccolo tributo d'ammirazione. Se egli fosse stato ansioso di mantenere il segreto, non avrebbe lasciato il foglio mentre io mi trovavo lì accanto, ma anzi lui lo spinse piuttosto verso di me che verso di voi. Non pigliamo queste faccende troppo sul serio. Egli ha abbastanza incoraggiamento per continuare senza che noi si spiri l'anima su questa charada. Oh no, spero di non mostrarmi ridicola a questo riguardo. Fate come vi piace». Entrò Miss Woodhouse e ben presto riportò il discorso su quel tema, ripetendo la sua frequentissima domanda. «Ebbene, mie care, come procede il vostro libro? Avete trovato nulla di nuovo?» «Sì, papà, abbiamo da leggerti qualcosa, di interamente nuovo. Questa mattina è stato trovato un foglio, lasciato cadere, supponiamo, da una fata, contenente una graziosissima charada e abbiamo appena finito di copiarla nel libro». Emma la lesse a lui, nel modo in cui gli piaceva di sentirsi leggere, lentamente e distintamente, e a due o tre riprese, con spiegazioni di ogni parte, via via che procedeva. Ed egli rimase molto soddisfatto e, come lei lo aveva previsto, particolarmente colpito dalla chiusa complimentosa. «Proprio giustissimo, e detto a meraviglia, e quanto vero! E regna sol la donna, sol la bella. È una charada così graziosa, mia cara, che posso agevolmente indovinare che fata l'ha portata. Nessuno avrebbe potuto scrivere così leggiadramente se non tu, Emma». Emma fece solo un cenno del capo e sorrise. Dopo un momento di riflessione e un tenerissimo sorriso, egli aggiunse: «Ah, non è difficile vedere da chi hai preso. La tua cara mamma riusciva così bene in tutte queste cose. Oh, se io avessi solo la sua memoria. Ma non so ricordare niente, neanche quell'indovinello di cui mi hai sentito parlare. Posso solo rammentarmi la prima strofa, e ce ne sono parecchie. Kitty, vaga ma gelida donzella, accese lamentevole fiammella. Al fanciul col cappuccio io chiesi aiuto, soltanto l'approccio, se fosse temuto, così fatal al mio candor». E questo è tutto quello che io riesco a rammentare, ma l'indovinello è ingegnoso da cima a fondo, ma credo, mia cara, che tu m'abbia detto d'averlo. «Sì, babbo, è trascritto nella nostra seconda pagina. L'abbiamo copiato dagli estratti eleganti. Era di Garrick, sai». «Sicuro, verissimo. Come mi piacerebbe ricordarmene di più. Kitty, ma vaga, ma gelida donzella, il nome mi fa pensare alla povera Isabella, perché per poco essa non fu battezzata Catherine, col nome della nonna. Speriamo di averla qui la settimana prossima. Hai pensato, mia cara, dove metterla e che stanza assegnare ai bambini? Oh sì. Lei avrà la sua propria camera, naturalmente la camera che ha sempre, e per i bambini c'è, naturalmente, la stanza dei bambini, come al solito, insomma. Perché ci dovrebbero essere cambiamenti? Non so, mia cara, ma è passato tanto tempo da quando venne qui, almeno dalla Pasqua scorsa, e allora rimase soltanto per pochi giorni. È un grande inconveniente che Mr. John Knightley sia un avvocato. Povera Isabella. È proprio triste che sia tenuta così lontano da noi tutti. E quanto le dispiacerà quando viene di non trovare più qui Miss Taylor. Almeno Babbo non resterà sorpresa. Non lo so, cara. Quanto a me, io certo rimasi sorpreso la prima volta che sentii che si sposava. Dobbiamo invitare a pranzo Mrs. e Mr. Weston, mentre Isabella è tra noi. Sì, cara, se c'è tempo, ma, con tono molto abbattuto, essa viene solo per una settimana e non ci sarà tempo per nulla. È un peccato che non possa restare di più, ma sembra un caso di forza maggiore. Mr. John Knightley deve essere di nuovo a Londra il 28 e dobbiamo essere grati, Babbo, d'aver noi tutto il periodo di tempo che essi possono passare fuori di città e che 2 o 3 giorni non ci sono tolti per l'abbazia. Mr. Knightley promette di rinunziare al suo diritto per questo Natale. Sebbene, lo sai, è trascorso più tempo da quando essi sono stati da lui che da noi. Sarebbe davvero un gran dispiacere, mia cara, se la povera Isabella dovesse soggiornare altrove che a Hartfield. Mr. Woodhouse non voleva ammettere che Mr. Knightley avesse diritti sul fratello o che altri oltre lui ne avesse su Isabella. Pensò un po', poi disse: «Ma non vedo perché la povera Isabella dovrebbe essere obbligata a tornare via così presto, anche se lui lo deve. Credo, Emma, che tenterò di persuaderla a restare più a lungo con noi. Lei e i bambini potrebbero restare benissimo». «Ah, Babbo, questo è quel che non ci è mai riuscito a ottenere. E non credo ci riuscirai mai. Isabella non può tollerare di non accompagnare il marito». Questo era troppo vero perché potesse venir contraddetto. Per sgradito che ciò fosse, Mr. Woodhouse non poté che emettere un sospiro di rassegnazione. E siccome Emma vide che il suo umore s'abbatteva all'idea dell'affetto di sua figlia per il marito, immediatamente portò il discorso su un tema destinato a sollevarlo. «Harriet deve darci il più possibile la sua compagnia mentre sono qui, mio cognato e mia sorella. Sono sicura che le piaceranno i bambini. Siamo orgogliosi dei bambini, non è vero, Babbo? Mi chiedo quale troverà più bello, Henry o John?» «Già, me lo chiedo anch'io, poveri piccolini, come saranno contenti di venire. Sono così felici di soggiornare a Hartfield, Harriet. Lo credo, signore. Sono certa che non c'è chi non lo sia. Henry è un bel ragazzo, ma John somiglia molto alla mamma. Henry è il maggiore, fu chiamato col mio nome, non quello di suo padre. John, il secondo, ha ricevuto il nome paterno. Alcuni rimangono sorpresi, credo, che questo nome non sia toccato al maggiore. Ma Isabella volle che il primo si chiamasse Henry, e ciò mi parve molto carino da parte sua. Ed è proprio un ragazzo intelligente. Sono tutti assai intelligenti e hanno tante maniere carine. Vengono accanto alla mia poltrona e dicono: «Nonno, puoi darmi un pezzo di spago?» E una volta Henry mi ha chiesto un coltello, ma io gli dissi che i coltelli erano fatti solo per i nonni. Credo che il loro padre sia troppo burbero con loro molto spesso. «A te sembra burbero», disse Emma, «perché tu sei così dolce, ma se tu potessi paragonarlo con altri babbi, non lo crederesti burbero. Vuole che i suoi ragazzi siano attivi e vigorosi e se si comportano male può dir loro di tanto in tanto una parola brusca, ma è un padre affettuoso. Di sicuro Mr. John Knightley è un padre affettuoso, i bambini li vogliono tutti bene». E poi viene il loro zio e li palleggia verso il soffitto in una maniera che fa proprio spavento. «Ma a loro piace, Babbo, non c'è nulla che piace a loro tanto. Ci provano tanto gusto che se lo zio non avesse messo la regola che devono darsi il cambio, quello che ha cominciato non vorrebbe mai cedere il posto all'altro». «Ma non posso capirlo. È il caso di tutti noi, bambo. La metà del mondo non può capire i piaceri dell'altra. Più tardi, nella mattinata, e proprio quando le ragazze stavano per separarsi, preparandosi per il consueto pranzo delle quattro, capitò di nuovo l'eroe di questa inimitabile sciarada. Harriet volse il viso altrove, ma Emma poté riceverlo col solito sorriso, e il suo occhio pronto non tardò a scoprire nel suo la consapevolezza d'essersi buttato avanti, d'aver gettato un dado, ed essa immaginava che egli fosse venuto a vedere che faccia avesse scoperto quel dado. La sua ragione apparente, tuttavia, era di chiedere se la partita di Mrs. Theodhouse potesse essere messa insieme la sera senza di lui, o se la sua presenza fosse, sia pure appena appena, necessaria ad Hartfield. Se lo era, ogni altra cosa sarebbe passata in sottordine. Ma, in caso contrario, il suo amico Cole aveva tanto insistito perché pranzasse con lui, dava alla cosa tale importanza che egli aveva promesso incondizionatamente d'andare. Emma lo ringraziò, ma non poteva permettere che per via di loro gli desse un disappunto all'amico. Suo padre era sicuro di mettere insieme la partita. Egli insisté di nuovo, essa di nuovo declinò l'offerta, e pareva che gli stesse per fare la riverenza, quando, prendendo il foglio dal tavolo, Emma glielo rese. «Oh, ecco la sciarada che siete stato così gentile da lasciarci. Grazie d'avercela fatta vedere. L'abbiamo tanto ammirata che mi sono arrischiata a trascriverla nella collezione di Miss Smith. Spero che il vostro amico non se l'abbia male. Naturalmente ho trascritto solo i primi 8 versi». Di certo, Mr. Elton non sapeva troppo bene che dire. Prese un'aria piuttosto perplessa, piuttosto confusa. Disse qualcosa intorno all'onore, dette un'occhiata a Emma e a Harriet, poi, vedendo il libro aperto sul tavolo, lo prese e lo esaminò molto attentamente per superare il momento. «Dovete fare le mie scuse al vostro amico, ma una sciarada così buona non deve essere portata a conoscenza solo di uno o due persone. Finché scrive con tanta galanteria, egli può star sicuro dell'approvazione di ogni donna». «Non ho alcuna esitazione a dire», rispose Mr. Elton, «che esitava parecchio mentre così diceva. Non ho alcuna esitazione a dire, almeno se l'amico mio ha gli stessi sentimenti che ho io, non ho il minimo dubbio che potesse egli vedere la sua effusione poetica onorata come la vedo io», guardando di nuovo il libro e riconducandolo sul tavolo. «Considererebbe questo il momento più magnifico della sua vita». Dopo questo discorso se ne andò al più presto possibile. A Emma non parve l'ora, poiché con tutte le buone e amabili qualità di Mr. Elton c'era nei suoi discorsi una specie d'ostentazione che minacciava di farla ridere. Essa corse via per soddisfare questo desiderio, lasciando a Harriet la parte più tenera e sublime del piacere. Benché si fosse già alla metà di ottobre, finora il tempo non aveva impedito alle due signorine di fare le loro passeggiate con sufficiente regolarità. E il giorno dopo Emma aveva da fare una visita di beneficenza a una famiglia povera, che viveva un po' fuori di Highbury. Il loro tragitto a questo casolare isolato scendeva per la stradina della Pieve, una stradina che si distaccava ad angolo retto dalla via principale, larga sebbene irregolare del paese, e, come può indovinarsi, conteneva la benedetta dimora di Mr. Elton. Dapprima si passava dinanzi ad alcune case scadenti, poi, a circa un quarto di miglio lungo la stradina, sorgeva la canonica, una casa antica e non molto buona, quasi vicino alla strada quant'era conveniente. Non godeva di una posizione molto comoda, ma il proprietario attuale l'aveva abbellita parecchio. E, così com'era, non sarebbe stato possibile che le due amiche vi passassero davanti senza rallentare il passo e rivolgervi gli occhi. L'osservazione di Emma fu: «Eccola qui. Qui, uno di questi giorni, verrete voi e il vostro libro di indovinelli». E quella di Harriet: «Oh, che casa graziosa, che casa incantevole. Ecco lì le tendine gialle che Miss Nash ammira tanto». «Non passo da queste parti spesso ora», disse Emma mentre proseguivano. «Ma allora ci sarà uno stimolo. e, a poco, verrò a conoscere intimamente tutte le siepi, i cancelli, gli stagni e gli alberi svettanti di questa parte di Highbury. Vide che Harriet, in vita sua, non era mai stata dentro la canonica, e la sua curiosità di visitarla era così viva che, a giudicare dalle manifestazioni esteriori e dalle probabilità, Emma poteva classificarla solo come prova d'amore, con l'opinione di Mr. Elton circa il pronto ingegno di Harriet. «Vorrei tanto che potessimo riuscirci», disse lei, «ma non posso immaginare nessun pretesto tollerabile per entrare. Nessuna domestica di cui io desideri informazioni dalla sua governante, nessuna comunicazione da parte di mio padre». Ci pensò su, ma non poté immaginare niente. Dopo un reciproco silenzio di alcuni minuti, Harriet ricominciò. «Mi sorprende tanto, Miss Woodhouse, che voi non siate sposata o in procinto di esserlo. Affascinante come siete!» Emma rise e rispose: «Il mio essere affascinante, Harriet, non è abbastanza per indurmi al matrimonio. Devo trovare io pure affascinanti gli altri, almeno uno. E non solo non mi sposerò per adesso, ma ho pochissima intenzione di sposarmi mai». «Ah, così dite? Ma non posso crederci. Bisognerebbe che vedessi una persona molto superiore a tutti coloro che ho visto finora, per sentirmi tentata». «Mr. Elton, sapete», riprendendosi, «è fuori discussione, e non desidero di vedere una tale persona. Preferirei di non essere tentata. Davvero, non posso vivere meglio di così. Se dovessi sposarmi, dovrei prepararmi a pentirmene. Dio mio, com'è strano sentir parlare così una donna. Non sento nessuno dei consueti allettamenti al matrimonio che sentono le donne. Se dovessi innamorarmi, certo, la cosa sarebbe diversa. Ma io non mi sono innamorata mai. Non è la mia tendenza o la mia indole, e non credo che lo sarò mai. E senza amore sono sicura che sarei una sciocca a mutare una situazione come la mia. Di denaro non ne ho bisogno, d'occupazione non ne ha bisogno, di posizione sociale non ne ha bisogno. Credo che poche donne maritate sono per metà padrone a casa dei loro mariti di quanto lo sono io a Hartfield. E mai, e poi mai, potrei sperare d'essere così veramente amata e importante. Così sempre la prima e sempre infallibile agli occhi di qualunque uomo, come lo sono a quelli di mio padre. Ma rimanere zitella per tutta la vita come Miss Bates? Immagine più formidabile non potreste presentare, Harry. E se io pensassi di rassomigliare mai a Miss Bates, così sciocca, così soddisfatta di sé, così sorridente, così uggiosa con le sue chiacchiere, così priva di discernimento e di raffinatezza, e così proclive a raccontare ogni cosa relativa a ognuno intorno a me, io mi sposerei subito domani. Ma sia detto tra noi, sono convinta che non ci può essere somiglianza alcuna, se non nel fatto di non essere maritate. Ma pure sarete una zitella, e ciò è così terribile. Non importa, Harriet, non sarò una povera vecchia zitella, ed è solo la povertà che rende il celibato spregevole agli occhi d'un pubblico generoso. Una donna sola, con una rendita limitatissima, deve essere una vecchia zitella, ridicola, sgradevole. Lo zimbello di ragazzi e di giovinette, ma una donna sola, facoltosa, è sempre rispettabile e può essere assennata e piacevole come chiunque altro. E la distinzione non va proprio tanto contro la schiettezza e il buon senso del mondo come appare a tutta prima. Perché una rendita molto limitata tende a restringere la mente e a inecidire il carattere. Coloro che stentano a vivere e che sono forzati a vivere in una società molto piccola e di solito molto inferiore, possono ben essere meschini e scontrosi. Questo tuttavia non calza per Miss Bates. Essa è soltanto troppo bonacciona e sciocca per andarmi a genio, ma in genere essa garba moltissimo a ognuno, sebbene sia nobile e povera. La povertà non ha certo ristretto la sua mente. Io credo davvero che se adesse un solo scellino al mondo ne darebbe via probabilmente la metà, e nessuno ha paura di lei, e questo costituisce un grande fascino. Dio mio, ma che farete? Come impiegherete il vostro tempo quando sarete vecchia? Se io conosco me stessa, Harriet, la mia è una mente attiva, affaccendata, con moltissime risorse indipendenti, e non vedo perché dovrei trovarmi con le mani in mano a 40 o 50 anni più che a 21. Le consuete occupazioni dell'occhio, della mano e della mente di una donna mi saranno aperte allora come adesso, o con variazioni senza importanza. Se io disegno di meno, leggerò di più. Se rinuncio alla musica, lavorerò di tappezzeria. E quanto a persone a cui interessarmi e affezionarmi, che in vero è il gran motivo di inferiorità, e la cui assenza è realmente il gran male da evitare nello stato nubile, sarò ben provvista, con il darmi cura di tutti i bimbi di una sorella che amo tanto. Ce ne sarà abbastanza, con ogni probabilità, da somministrare ogni genere di sensazione di cui può aver bisogno una vita declinante. Ce ne sarà abbastanza per ogni speranza e per ogni timore, e sebbene il mio affetto per nessuno di loro possa eguagliare quello di un genitore, ciò corrisponde alle mie idee di vita felice più di ciò che è maggiormente caldo e cieco. I miei nipoti e le mie nipotine. Avrò sovente presso di me una nipotina. Conoscete la nipote di Miss Bates? Ossia, so che dovete averla vista un centinaio di volte, ma avete rapporti? Oh sì, siamo sempre forzati ad aver rapporti ogni volta che essa viene a Highbury. Tra parentesi, questo quasi mai basterebbe a disgustarmi da una nipote. Dio liberi, perlomeno che io debba mai per metà seccare la gente con tutti i nasi messi insieme, quanto lei con Jane Fairfax. Il solo nome di Jane Fairfax dà la nausea. Ogni lettera di lei viene letta una quarantina di volte. I suoi complimenti a tutti i suoi amici fanno il giro parecchie volte. E se essa manda alla zia il modello di una pettorina o si ricama un paio di giarrettiere per la nonna, non si sente parlare d'altro per un mese. Desidero per Jane Fairfax ogni bene, ma essa mi annoia a morte. Stavano ora avvicinandosi al casolare e tutti i temi oziosi furono messi in disparte. Emma era molto compassionevole e le sventure dei poveri erano sicure di venire alleviate dal suo interessamento e dalla sua bontà, dal suo consiglio e dalla sua pazienza, quanto dalla sua borsa. Essa sapeva fare con loro, era indulgente per la loro ignoranza e la loro tentazione, non aveva aspettative romantiche di straordinaria virtù da parte di coloro per i quali l'educazione aveva fatto sì poco. Si medesimava con pronta simpatia coi loro malanni e sempre offriva il proprio aiuto con altrettanta intelligenza che benevolenza. Nel caso presente, veniva a visitare malattie e povertà insieme, e dopo essere rimasta là tutto il tempo che poté dare conforto e aiuto, lasciò il casolare con tale impressione della scena da farle dire a Harriet, mentre riprendevano il cammino: «Questi sono gli spettacoli, Harriet, che fanno bene, come fanno sembrare futile ogni altra cosa». Ora io mi sento come se non potessi pensare ad altro che a questi poveretti per tutto il resto del giorno. Eppure, chi può dire quanto poco ci metterà tutto ciò a svenire dalla mia mente? Verissimo, disse Harry, poveretti, non si può pensare ad altro. E davvero non credo che l'impressione si cancellerà così presto, disse Emma mentre attraversava la bassa siepe e il gradino vacillante che terminavano lo stretto e sdrucciolevole sentiero dal casolare all'ingresso del giardino e le riconducevano sulla stradina. «Non credo che si cancellerà», ripeté, fermandosi a guardare di nuovo tutto lo squallore esterno del luogo e a considerare lo squallore ancor più grande che avevano visto dentro. «Oh no, davvero, Dio mio», disse la compagna. Seguitarono a camminare. La stradina faceva una leggera curva. Passata questa, apparve immediatamente Mr. Elton, e così vicino da dare ad Emma solo il tempo di aggiungere. «Ah, Harriet, ecco che si presenta un improvviso cimento per la nostra perseveranza nei pensieri buoni». «Ebbene», disse sorridendo, «spero che possa concedersi che se la compassione ha prodotto uno sforzo e qualche sollievo per i sofferenti, ha fatto tutto ciò che veramente importa». E se noi simpatizziamo con gli infelici, basta fare tutto quel che possiamo per essi, e il resto è vuota simpatia, il cui solo effetto è d'affliggere noi stessi. Harriet fece appena in tempo a rispondere, «Oh Dio, certo!», prima che Mr. Elton le incontrasse. Tuttavia i bisogni e le sofferenze della povera famiglia furono il primo argomento che abbordarono. Egli si avviava a fare una visita a quella famiglia. Ora avrebbe rimandato questa visita, ma ebbero un'interessantissima conversazione intorno a quel che poteva e doveva farsi. Indi, Mr. Elton tornò sui suoi passi per accompagnarle. «Imbattersi in una faccenda di questo genere, pensò Emma, incontrarci in un piano di beneficenza, ciò produrrà un grande aumento d'amore da ambo le parti. Non mi stupirei se dovesse portare alla dichiarazione. Lo dovrebbe se io non fossi qui. Vorrei poter essere altrove.